farai per me il sonno. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. E nessuno mai più, ormai. Tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte io sogno tremando di te. Sarai per me il sonno. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. E nessuno mai più, ormai. Perché sei tu?